Certo, non si può pretendere di fissare con precisione matematica al sentimento religioso la sua misura, ma dove basta l'espressione nuda e schietta, non si deve usare quella accesa, e la frase semplice è sempre da preferirsi a quella sovraccarica. La liturgia poi ci fa intendere come debbano essere le emozioni religiose perché riescano durevolmente efficaci a una collettività di persone. Non sentimenti troppo ricercati che valorizzino speciali settori del patrimonio dogmatico, bensì sentimenti fondamentali, umani e religiosi, quali ad esempio i salmi tanto chiaramente esprimono: adorazione, anelito a Dio, ringraziamento, preghiera, timore, rimorso, amore, sacrificio, rassegnazione, fede, fiducia e via dicendo. Non emozioni troppo raffinate, troppo tenere, troppo sdilinguite, bensì forti, chiare, con la semplicità della natura. E proseguendo, la liturgia possiede un mirabile riserbo. Certo, forme di abbandono essa le accenna appena, oppure le circonda e vela con tanta profusione di immagini che l'anima vi si sente quasi protetta e celata. La preghiera della Chiesa non mette in pubblico i misteri del cuore, essa si trattiene nella sfera del pensiero e del simbolo. Suscita certamente profondissimi e delicatissimi moti e processi spirituali, ma li lascia però nello stesso tempo nella loro segreta intimità. Certi sentimenti d'abbandono, certe parole che rivelano l'intimità più sacra, ben di frequente non possono essere espresse senza pericolo per il pudore dell'anima. La liturgia ha compiuto l'opera magistrale e ha reso possibile all'uomo di esprimere in essa la sua vita religiosa interiore nell'intera sua pienezza e profondità, pur conservando occulto il suo mistero, secretum meum mihi. Egli può effondersi, può esprimersi, eppur non sente portato in pubblico nulla di ciò che deve rimanere nascosto. Lo stesso vale per l'atteggiamento morale implicito nella preghiera. L'azione liturgica, la preghiera liturgica, procedono da premesse morali, dall'anelito alla giustizia, dalla contrizione, dallo spirito di sacrificio, eccetera, e si concludono spesso a loro volta in atti di carattere morale. Pur si può anche qui osservare delicatezza di tatto. La liturgia non richiede facilmente azioni morali di grande impegno, specialmente quelle che implicano una decisione interiore. Essa le esige là dove l'importanza della cosa lo giustifica realmente, ad esempio la biura in occasione del battesimo, il voto al ricevimento degli ordini sacri. Quando però si tratta di esprimere nella preghiera quotidiana ordinaria i quotidiani propositi e sentimenti morali, la liturgia si mostra molto riservata. La liturgia non pronuncia facilmente una promessa solenne, un distacco assoluto e perpetuo dal peccato, una perpetua dedizione totale, una consacrazione che impegni tutto l'essere, un completo rinnegamento e una rinuncia al mondo, una promessa di amore esclusivo e simili. Tali pensieri certo si presentano, ma di regola nel senso che il credente prega per avere questi sentimenti, ovvero ne considera la nobiltà e bontà, oppure a essi è esortato. La liturgia evita di usare preghiere in cui siano contenuti addirittura impegni morali di questo genere, quali forme di devozione da ripetersi frequentemente. E com'è giusto questo? Nelle ore dell'entusiasmo, in certi momenti decisivi, codeste espressioni possono essere giustificate, persino necessarie. Ma appena si ha a che fare con la consueta vita spirituale di una comunità, con la religiosità quotidiana, allora espressioni siffatte, spesso ripetute, mettono il credente di fronte a una scelta penosa. O egli prende la preghiera in questione sul serio e cerca di suscitare in sé il sentimento morale da essa espresso, ed ecco che egli sperimenta di poterla compiere con interiore veracità solo di rado, oppure mai addirittura, esponendosi così al pericolo di rendere insincera la sua vita interiore, di essere costretto a sentimenti e azioni che gli sono ancora troppo difficili, di abbassare alla ripetizione quotidiana processi morali che di loro natura non si compiono di frequente. Oppure egli prende le parole semplicemente come espressione di una passeggera disposizione religiosa e allora si affievolisce il significato morale, divenendo di cui sono sostanziate quelle preghiere. Una formula siffatta può ben essere usata di frequente con interiore veracità, essa rimane però svalutata nella sua significazione morale. Anche qui vale la parola del Signore: il vostro dire sia sì, sì, no, no. La liturgia ha risolto il problema di spronare costantemente alle più elevate mete morali e insieme di rimanere schietta e sincera, non trascurando la realtà d'ogni giorno. Un altro aspetto del problema della preghiera comune è quello della sua forma. Lo si può all'incirca formulare così: quale forma di preghiera può suscitare un'emozione religiosa in un gran numero di persone, assicurandone un'adeguata persistenza? Il tipo d'ogni preghiera comune ci è offerto dalla preghiera corale della Chiesa. Per essa, ogni giorno numerose comunità si riuniscono a ore determinate. Semmai, in qualche luogo, proprio qui veniva offerta la condizione preliminare perché le leggi formali della preghiera comune giungessero a espressione. Soprattutto l'intera radunanza vi deve prendere parte viva. Se ad esempio ci si limitasse ad ascoltare chi dirige la preghiera, il movimento degli animi presto s'arresterebbe. Tutti i presenti perciò vi debbono prendere parte. E invero non basta che la comunità risponda con parole sempre identiche a chi dirige la preghiera. Anche questa forma di preghiera è accolta dalla liturgia, ad esempio nelle litanie. Essa ha la sua piena giustificazione e sarebbe misconoscere le esigenze dell'anima umana il volerla respingere. Nelle litanie la comunità risponde ai diversi appelli di chi dirige l'orazione con un atto religioso identico, cioè con la supplica. In tal modo codesto atto deve ottenere ogni volta un nuovo contenuto e una nuova profondità. Nasce così una intensità progressiva, la quale è adatta come poche altre forme a esprimere una disposizione d'animo vigorosa, una dedizione a Dio che, per così dire, raccoglie da ogni lato e, incalzante, impegna tutte le sue forze. La liturgia, però, non usa molto di frequente questa forma di preghiera. Si potrebbe anzi dire che se ne vale di rado se si considera l'intero ambito del culto divino. E ha ragione, poiché essa nasconde il pericolo di intorpidire il movimento dell'anima.